con me stesso libero arbitrio di ciò che è un componimento lirico su scratch, jazz e soul. Porto ciò che è passato nel presente con 5-6R che regala shock, stop. Poi riprendo, intingo ogni vagone con il termine sample. Faccio rap, no fobia, sono in rap armonia. Soffro cleptomania, locri psichiatria, locri bipologia, locri apatia. Salottino, no fobia, energia, danno. Overdose da suoni, colori sovrapposti a rumori, passione e storyteller. Fonda ambienti, jazz e tarantelle, chill. Connessione, locri New Orleans. Dal sottosuolo, vibrazioni tipo mainstream nel 2000. Mentre un contrabbasso mi segue e si inclina nel soul. Codici riflessi, viaggio con te più sì, fino agli MC. From New York to Cali, prossima fermata Locride. Shock, note blu, basi solida nel soul. Codici riflessi, viaggio con te più sì, fino agli MC. From New York to Cali, prossima fermata Locride. Shock, note blu, basi solida. Mind a foot, resto immobile di fronte a un loop. Bombole di bingo, funky groove. Come M in overdose da polvere di stelle. E vedo i miei sample dietro le sbarre. Suono note per poter assaporarle, rimescolarle sui quattro quarti, riarrangiarle. Parto da Riskin, suoni vecchi, fino ad arrivare a parlare di Dizzy Gillespie. Sta nel soul, codici riflessi, viaggio con te più sì, fino agli MC. From New York to Cali, prossima fermata Locride. Shock, note blu, basi solida. Sta nel soul, codici riflessi, viaggio con te più sì, fino agli MC. From New York to Cali, prossima fermata Locride. Shock, note blu, basi solide. Basta poco, mind a foot. Basta solamente un sax, drum and bass e tutti i loop. Suona fun, jazz, soul, rhythm and blues. Mescolando tutto avrai il suono caldo del sud. Beat, rack, street, art, mic, check, scat. And bass, cool, jazz, soul, hip hop. L'opportunità che dà la musica sta nella libertà di esprimerla. La felicità, tic tac su di un beat. Muovo il tempo come l'orologio nella rack. To the next desk, b-boy e fly. Asfalto a scacchi, stappi di spray, fat cap e guanti. Suoni e ritmi che si fondono nel blu, del blu, del footwork. Ora mind a foot rappresentano sun e soul. Ricordano fobia ma hip hop. Sun e soul, codici riflessi, viaggio con te più sì, fino agli MC. From New York to Cali, prossima fermata Locride. Shock, note blu, basi solida. Sun e soul, codici riflessi, viaggio con te più sì, fino agli MC. From New York to Cali, prossima fermata Locride. Shock, note blu, basi solide.